Bene, eccoci qui, ci lanciamo anche oggi in questa baraonda perché insomma l'ordine non fa parte dello studio Campobuario, diciamo lo studio Campobuario forse è connotato proprio da un caos armonico, mi lancio così in questa, volevo bilanciare. Caos creativo. Caos creativo, Gabriella mi suggerisce bene, caos creativo. Allora, questo è il terzo incontro, il terzo degli incontri che Carlo Alberto Bucci mi ha concesso, ci ha concesso nell'ambito di questa mostra che si chiama Artista Gallerista. Alberto D'Amico è lo studio Campobuario. Insomma, arrivato un po' a questo terzo incontro, mi ero illuso di aver compreso qualcosa e invece adesso mi ritrovo di nuovo nel vuoto totale perché volevo introdurre Giuseppe dicendo che nello studio Campobuario, vabbè, c'è un caos, quindi vale a dire, non è una galleria, non è un cinema, non è un teatro, non è un auditorium, non è una sala conferenze, ma nell'arco di questi 34 anni si sono avvicendate un po' tutte queste cose qui, in un modo abbastanza, diciamo, come dire, equilibrato. Ciao. Bilanciato, perché secondo me non c'è stata una prevalenza di qualche cosa, no? Diciamo, le arti visive hanno preso il sopravvento? No. La scrittura ha preso il sopravvento? No. Ma la filosofia, l'architettura, la fotografia, il cinema, diciamo, tutto quanto è rimasto, secondo me, come dire, come un coro, una polifonia, diciamo, in cui tutte le diverse discipline, ma soprattutto i diversi autori, le diverse persone che hanno fatto qualcosa nello studio, diciamo, sono riuscite a essere, come dire, protagoniste nel momento in cui veniva. Ma io sto dicendo cose senza senso, quindi Giuseppe si è allontanato, ma invece, vabbè, ti avvicino, perché, diciamo, sono tante versioni all'interno dello studio e quindi mi viene in mente un evento che si è chiamato Boario con l'H, tensioni in campo, e un'idea che insomma Giuseppe Carrera e anche Marco Giovenale, Luca Venitucci e Michele Zaffarano e io abbiamo avuto nel lontano 2018. Giuseppe, dici qualcosa a riguardo? Io forse Un pochino, sì. un po'. Sempre viene tumore Chiedi. Sì, lo ricorderei un po' brevemente che cosa fu. Dal 28 settembre al 1 ottobre, 4 giornate in un crescendo di appuntamenti e di eventi fino alla notte bianca tra il 30 e il 1 ottobre. Desiderio che non ci fosse mai la fine, per cui sai, quando avevi già 3 giorni di impegni forti più una notte intera, in cui si decise, io credo che l'idea iniziale fu banalmente quella di non finire o di fare una coda lunghissima del desiderio della vacanza estiva, cioè un desiderio di festa, tanto che fu concepita come una festa. L'ideale sarebbe stato appunto, con la notte bianca si realizzò, di avere delle giornate intere dove l'intero tempo era occupato dal dono da parte degli organizzatori di mostre, opere, concerti, cibo, musica, proiezioni, video, eccetera. Una sorta di potluck perenne. E direi, i giorni 27 settembre, 1 ottobre, il luogo tutto, cioè senza eliminare niente. dai sotterranei con delle mostre e delle esposizioni al piano terra, agli appartamenti, fino al terrazzo. Al terrazzo era stato concepito, immaginato un concerto, ma soprattutto per noi necessario l'organizzazione della distribuzione del cibo, cioè del rinfresco. Organizzare un rinfresco che avrebbe motivato ancora di più la permanenza continua. Per cui l'intero spazio, mostre permanenti, cioè degli artisti chiamati, il criterio non era un criterio tematico, era un criterio di piacere, di amicizia, di interesse in quel momento, unito fortemente a un'abolizione di qualsiasi richiesta economica. Cioè si partiva con un budget pari a zero, non avevamo niente, per cui chi voleva fare una performance, chi voleva fare un concerto, le produzioni. Una mostra tematica però c'era. Sì, sì, sì, no, c'erano all'interno alcune tematiche, però non c'era il tema che univa sì, tutto. No. Dunque l'altro elemento era di rendere tutto il più possibile gratuito in tutte le direzioni, noi nell'offrire gli eventi e coloro che partecipavano non richiederci nulla. Si partiva da un discorso di anti-economia, anti-mercantile. Nel piano sotterraneo avevamo chiamato degli artisti, le mostre incorniciavano il luogo perché c'erano sotto delle mostre e sopra delle mostre. Sopra c'era una mostra teologia escrementizia dedicata alle feci, la parte più alta è dedicata alle feci, nell'arte contemporanea, alcuni esempi dell'uso della merda nell'arte contemporanea, dai classici a quelli meno evidenti. E giù in basso c'erano diversi artisti con il proprio spazio, più un'altra mostra monotematica che era musica per la vista, musica per vedenti, cioè dove la bellezza non era al momento nel suono, ma nelle partiture, cioè nella grafia musicale degli spartiti messi da Giustina Prestento a John Cage, Prestento a Bruno Maderna, a Silvano Bussotti, dove l'aspetto grafico è già autosufficiente e fascinoso. Poi in realtà questa mostra venne attivata musicalmente da Schiaffini, che venne una sera e passeggiando lungo la mostra e leggendo le partiture visivamente, non direi a livello di notazione, ma a livello visivo, cioè come sollecitazioni puramente visuali, improvvisò un suo concerto, un assolo, passeggiando attraverso e sostando come un visitatore, invece di avere gli occhi aveva il trombone, la tromba, il trombone in bocca. Poi performance di artisti, ne cito uno, Cesare Pietro Iusti, si prestò per poter fare una seduta di distruzione attraverso acido delle monete, per cui delle monete, carta moneta di 50 euro, che era l'unica vera spesa che abbiamo richiesto volontariamente a chi voleva, dagli 50 euro due a Cesare Pietro Iusti e lui con l'acido te le distruggeva. Avevi solo il certificato che avevi sacrificato 50 euro. C'era la fila all'inizio, ma la fila si ridusse quando poi bisognava cacciare le monete. Cioè, no, una reazione psicologica sempre molto interessante, perché avevamo invitato diversi amici con l'idea trasformerai 50 euro in un'opera d'arte, però nel momento in cui devi mettere fuori 50 euro, alcuni chiesero, ma non si potrebbe fare 20 euro, si potrebbe fare 10 euro, non è possibile sì. Poter lanciare a persone che poi erano pronte ad andare in pizzeria a spendere 50 euro in quel momento, non considerando qual era. Io avevo invitato degli amici profani, dicendo avete una grande occasione con 50 euro, Cesare Pietro Iusti vi trasforma, oltre che c'è una l'acido non intacca solo 50 euro, intacca anche la tua anima in quel momento, chiaramente solo qua, tutti prima erano tutti entusiasti, ah, non vedo l'ora, al momento di dire allora chi vuole, chi dà il denaro, non c'era più nessuno, si tirarono tutti quanti, per cui fu interessante anche da questo punto di vista. Io la volevo portare, infatti, la mia... E io in questo momento la mia in prestito. La mia, vedi cosa significa? La mia è in prestito in questo momento. Cioè la tua certificazione? No, perché rimane la moneta distrutta, rimane sbiancata. Non è facile, perché le monete sono indistruttibili, tendono all'indistruttibilità. Per cui bisogna usare un acido molto potente e rimane comunque sbiancata la moneta. In due performance c'è Cesare Giusti e anche la Guardia di Finanza che intervenne, perché non potresti attaccare i simboli regali della moneta. Un'altra sua performance che non facemmo per motivi organizzativi era invece quello di ingerire pezzetti da 50 e poi recuperare le proprie feci da 500 e poi esporre. No, quella... e poi lui li spezzettati e dati a diverse persone. Sì, una comunione, si chiama comunione. La comunione è fatta con denaro che viene defecato, grande omaggio a Piero Manzoni, e poi lo recuperi, devi partorirlo, prima ce l'hai dentro, poi lo partorisci. Il dolore sì, perché non. È perché gli acidi gastrici non fanno niente, rimane intatto, devi andare a ripescare. Devi prendere uno scola pasta a fare la fine. Sì, sì, è tutta un'operazione di denaro e merda, merda e denaro in tutti i sensi. Poi viene ricomposta e incorniciata ed è la comunione. Noi volevamo farlo a Berlino durante la mostra su Pasolini per Salò e ce l'hanno bloccata. Sì, ce l'ho bloccata. Quando l'ho capito. Noi abbiamo fatto anche cos'era dell'incendio, della combustione. Della combustione. Io anche lì una combustione che per terminare l'opera doveva completamente bruciare, invece io... Quelle erano gratuite perché dunque offerta appunto di dono gratuito di opere così. Poi abbiamo detto performance, è arrivato qua, tra le artiste abbiamo fatto un omaggio alle sorelle Mazzetti, allora c'erano tutte e due, sia Lorenza che Paola Mazzetti, oggi c'è solo... Mazzetti. Le sorelle Mazzetti sono due sorelle nipoti di Einstein, loro da ragazzine rimangono orfane e vengono affidate alla zia che era la moglie di Albert Einstein, di Roberto Einstein, che era il cugino di Albert Einstein. Aveva una villa vicino Firenze. La vendetta di Hitler fu tale di cercare di distruggere e uccidere tutti i parenti di Einstein appena Einstein era andato in America. Dunque delle SS si presentarono, Robert riuscì ad avere un avvertimento perché erano capitati giorni prima a fare una perlustrazione, si allontanò nel bosco, loro erano andati a abitare in campagna, le SS arrivarono, ammazzarono la moglie di Robert Einstein, le figlie, e risparmiarono le due cugine Lorenza e Paola Mazzetti perché avevano il cognome Mazzetti, non avevano il cognome Einstein, per cui con molta correttezza, deontologia, la SS l'avevano risparmiate. Robert quando tornò dopo poco si uccise per disperazione, questa è la strage che venne fatta. Loro poi divennero eredi, erano delle ragazzine, vanno a Londra fanno la carriera soprattutto Lorenza cinematografica, ma vengono a sapere che il tutore si è impossessato di tutto l'eredità, il patrimonio, e non è più recuperabile. Dunque una catastrofe dietro l'altra. Lorenza e Paola recupereranno la memoria dopo i 25 anni attraverso le sedute di psicoanalisi analitica. Paola poi si dedicherà come professionista alle sedute di psicoanalisi. Allora, Lorenza e Paola avevano 90 anni quando noi le abbiamo invitate, erano due fantastiche donne, siamo andate a prendere le opere, a prendere loro lì nel luogo dove abitavano a Via del Pellegrino, erano lì così, per cui c'era un omaggio a loro. Poi c'è stato un omaggio alla poesia, dunque l'appartamento cosiddetto della zia di Alberto è stato adibito per delle raccolte poetiche contemporanee. Tra queste ricorderei, per ovvi motivi, la ricorrenza quest'anno dell'uscita del suo primo libro, Carlo Cordini, che lesse Assenza totalmente, tutta un pomeriggio lesse Assenza, poi c'era la Carraioli, eccetera, dunque poesia. E poi concerti, proiezioni, abbiamo proiettato il film K di Lorenzo Manzetti, dedicato a Kafka, forse la migliore versione cinematografica della Metamorfosi di Kafka, con cui lei da ragazza vinse il primo premio all'Accademia di Londra e fu colei che ha inaugurato il free cinema inglese. Poi i ragazzi dell'Accademia di Santa Cecilia furono invitati per un concerto finale dedicato a Shostakovich, ai quartetti di Shostakovich, e poi proiezioni, incontri, mangiare, eccetera. La notte bianca, gli artisti innocenti, tutta la notte bianca l'hanno raccontata per cui è quella lì. Gli appuntamenti erano continui e ininterrotti. L'unica bravura nostra credo sia stata una certa disciplina dell'orario, che altrimenti sarebbe implosa. Anche i tuoi studenti sono stati. Quello è stato un aspetto bello, perché era appena stato inaugurato il rapporto scuola-lavoro, con questa cosa terribile per cui uno studente deve lavorare, deve entrare nella maledizione del lavoro prima ancora di finire la scuola, per cui è una cosa che non riesco a capire che concetto sia, e dunque smette di studiare per andare a lavorare, cioè assaggi prima la galera, in un certo senso. Allora noi abbiamo deciso che avremmo fatto una cosa, avrei impiegato tutti i miei studenti del liceo per fare questa grande festa. Dunque loro avrebbero partecipato lavorando, perché avrebbero fatto guardieria, controllo, organizzazione, ma in realtà avrebbero ascoltato i quartetti di Shostakovich, le mostre della Manzetti, le poesie di Carlo Bordini, credo che alcuni di loro hanno intrapreso poi la carriera della passione poetica, della passione artistica in questa festa che facemmo per questi giorni. È stato questo, cioè in realtà devo dire riuscì, perché l'organizzazione funzionò miracolosamente. Perché era veramente tantissima roba. E poi con il mangiare abbiamo garantito che nessuno tornasse a casa, perché c'era sempre il problema della dispersione dovuta alla cena, dovuta al fatto se non darmi niente. Anche la cena, ricordo che insomma fu... Sì, facevamo una cena di quelle vere, terminammo verso 1:30, 2:00, dopo la notte bianca, in un senza fine, in un fuori orario continuo. In più c'erano una specie di bookshop con multipli d'artista, libri d'artista, edizioni d'artista. Avevamo messo solo una condizione: i prezzi dovevano essere i più bassi possibili, cioè anche uno studente poteva comprarsi un'opera, un multiplo, una sua edizione. L'elemento economico univa un po' tutte le manifestazioni, cioè doveva essere una festa con il dono, non una festa che ti costasse. Quella di Pietro Giusti era volontario, era molto legato al denaro, cioè al desiderio, anche il fatto che abbiamo salvato poco, non abbiamo fatto catalogo, non abbiamo fatto nulla, direi per due ragioni: la prima organizzativa, la seconda perché era nata con il desiderio che tutto andasse disperso, cioè che ci fosse un'esaltazione della bancarotta, un'esaltazione dell'idea che rimarrà forse nella memoria, lo racconti, ma documentazione scarsissima. Non c'era un invito cartaceo, non c'è stato un bu. Anzi, qualche libro. Le fotocopie erano solo per i programmi. Se qualcuno... erano gli appuntamenti. No, però c'era un... c'è poi Andrea Mattone, che tu conosci. Sì, certo. Anche lui gratuitamente fece... Eccolo, questa era la c'era il programma per sapere cosa incontravi. In questo programma era solo questo, sì, cioè praticamente 28 e 1 ottobre, considerate che si cominciava a documentare una ragazza Carla, Michele Zaffarano legge, Lorenzo Manzetti e Schiaffini suona, Giovenale legge, Bordini legge, poi Venitucci 2018. Che anno era? 2018. Ah, poi venne a fare una performance di poesia da bere Lamberto Pignotti, poi facemmo ottobre di Eisenstein, del quartetto di Shostakovich e Santa Cecilia, perché avevamo aperto una specie di collaborazione con gli studenti di Santa Cecilia, che sono degli studenti straordinari, fantastici, ma non non vengono mai utilizzati, non possono mai suonare, non possono mai fare concerti, farsi sentire. Per cui con il direttore di Santa Cecilia, che allora era Roberto Giuliani, io dissi: ma facciamoli fare i concerti, cioè facciamo in maniera che suonino in pubblico. Forse fu l'unica volta che chiesi, ottenute da una borsa da studio della mia scuola, dei gettoni, cioè gli unici che furono pagati furono questi studenti, perché la cosa peggiore era sfruttarli in quel senso. Per cui i professionisti non presero una lira, mentre gli studenti vennero pagati con la felicità che loro terminarono il festival. Poi Pugni nell'aria di Roberto De Francesco, Incerto di Viaggio Valentina Giroto, Il flauto magico di Giannini Luzzati, La capa gira di Alessandro Piva, Il caricatore, La via conciliazione, poi Garrone, Il caso di forza maggiore con Nunziata, Gaudioso, e poi gli artisti che vi ho detto, gli ambienti, Musica per vedenti, Teologia esperimentale, Stanza di Max Evenkel, Guardando un ragazzo dormire di Alessandro Cicoria, Parete di Vincenzo Schillaci, alcuni di questi come Schillaci hanno fatto poi una loro carriera, Disegni delle sorelle Mazzetti, Urania al piano di Alberto D'Amico. E poi c'erano tutti gli appuntamenti dalle 17.30 di giovedì fino alla domenica all'1:30. Questa notte bianca è qualche maniera figlia delle iniziative sull'effimero di Nicolini, o se ne differenzia in Era già lontano, era già molto lontano. Era già molto lontano, era già lo stagione di maggio. Perché c'hai qui la. Sì, c'hai perché Renato penso che fosse morto. Il nostro desiderio è che ci fosse perlomeno un flusso continuo. Io in Italia l'ho detto, insomma, alla fine sia Renato Nicolini con Massenzio, eccetera, che Diezzi con Fuori Orario sono stati fra gli ispiratori nella mia formazione, insieme alla rivista Il Male, ci sono sicuramente. Cioè nel bilancio, devo dire, se dovessi adesso chiudere con un ricordo, la cosa che mi ha più impressionato fu dopo che Carlo Bordini lesse le sue poesie, la sera, quando ormai erano l'una passate, per cui stavamo smantellando, era finita la giornata, vedo un gruppo di studenti, di miei studenti, insieme a circolo, uno aveva comprato il libro Assenza e stavano rileggendo tutto il provento di Carlo Bordini. Beh, devo dire che lì per la prima volta ho avuto la percezione che qualcosa aveva funzionato, aveva qualcosa di leggermente inverosimile, nessuno gli ha detto niente, erano là per conto loro. Esistevano già i crediti, si sono presentati con la lista dei crediti. Però queste erano ore scuola lavoro. Quindi mi piace che chi leggeva la poesia, due giorni fa sono andato a fare studio visit da lui, che era un artista. Valerio Pastorelli, giovane, ha fatto l'accademia poi a Venezia. Uno studente di Marina Paris. Così, ed era lui che leggeva, mentre gli altri seguivano. Poi molto contento di vedere persone così giovani a sentire la poesia, perché avevamo anche la prova che funzionava. Applauso! Grazie Giuseppe. Io. Scusate, noi stiamo uscendo. Con loro abbiamo fatto cordonismo, tanto per che abbiamo appena ricordato. Ti ricordavo il cordone, come no? Anche la sorella. Casomai non passiamo la cosa, devi dai. Una nostra amica qua. Va bene, benissimo. Chi è? Grazie a te. Passerei la parola a Maurizio De Bonis e Orit Judovic. Ciao Maurizio. Con i quali dal 2000 in poi abbiamo organizzato diverse cose. Maurizio e io tanti anni prima organizzavamo proiezioni in giro per la città. Sì. Ti ricordi? Più o meno. Non per strada, insomma, sì. I vari luoghi istituzionali anche. E poi a un certo punto ci fu questa mostra di foto scattate al Gay Pride del 2000, loro vennero perché, come si chiamava, Rosaria, Maria, Rosa Maria Puglisi, Rosa Maria Puglisi partecipava alla mostra e ci siamo rincontrati dopo tanto e da allora è iniziato questo, questo sodalizio, questa collaborazione. Cosa vi ricordate, a parte il termine ideuzza che ci piaceva molto? Sì, erano sempre delle ideuzze, diciamo così, di basso livello che poi cercavamo di trasformare in qualcosa di più gradevole. Ma io per quello che posso dire, sono dovuto andare a pescare nella memoria ormai persa nella notte dei tempi, come dicevo prima. Dopo 25 anni siamo ancora vivi, quindi questo già mi sembra un dato interessante su cui riflettere. E dunque, ricordo che lavorammo soprattutto su alcune iniziative di carattere fotografico. Iniziammo a lavorare, se ben ti ricordi, perché io ho dei ricordi vaghi, sì, ormai la vecchiaia mi sta veramente, sì, sul gruppo Panicon. All'inizio. Ma non fu Mystery Trend la prossima? No. Ah, prima il gruppo Panicon, certo, che era questo, certo, gruppo formato da Pietro D'Agostino, che poi ha collaborato, ha continuato a collaborare con noi, anche con me, Alessandro Vescovo, che non c'è più, e Nicola Forenza, erano tre autori che avevano un'idea della fotografia all'epoca abbastanza, come dire, alternativa rispetto al panorama italiano e romano, che è veramente di scarsissimo livello per quanto riguarda l'evoluzione della pratica fotografica. E fu fatta una mostra, se ben ti ricordi. Sì, sì, sì, come no, la ricordo benissimo. Concepimmo, adesso mi sta venendo su, addirittura la produzione di Luce dei miei occhi, credo era il titolo della mostra, sì, e il video si intitolava, non te lo ricordi più, Rotor. Però non era così, era Rotor Scemo, sì, no? Poi Scemo cadde, che era un'animazione delle immagini del gruppo Panicon, che erano soprattutto immagini basate sugli esiti della luce quando colpisce gli oggetti, la materia, e quindi poi con delle animazioni fatte da Alberto, anche degli interventi di carattere audio, mi ricordo, sì, nostri, sì, sì, abbiamo una verbalizzazione, e quindi questo fu l'ingresso mio e di Orit nella collaborazione per quanto riguarda lo studio Campo Boario. Dopodiché si intrecciarono, se ricordo bene, una serie di mostre fotografiche, a cominciare dalla mostra di tuo zio Fausto. Ma Mystery Train è precedente. Prima di quello di tuo zio, sì, no? Sì, sì, mi ricordo che è possibile, però sì, insomma, tanto vabbè, ma insomma non è... Perché in Mystery Train, se ti ricordi bene, abbiamo fatto tu e io un montaggio di film che avevano a che fare col treno, perché la mostra era di foto scattate dal treno, sì, da Ori. E Maurizio e io invece ci siamo inventati questo collage, sì, cinematografico, e avevamo preso come punto di partenza Non ho sonno di Dario Argento, la prima scena, quella del treno, un interminabile inseguimento dell'assassino, del serial killer nei confronti di una donna, e poi inframmezzato da Totò e Peppino, dal ventre dell'architetto di Greenway, insomma qualunque scena avesse a che fare col treno era stata, sì, lì. E le foto invece ne avevamo una gigantesca, sì, ricordi, una molto molto grande, nuove, una stampa, sì, sì, quasi a parete dell'interno del treno, e poi tante altre foto, sì, poi avevamo creato dei binari, ti ricordi, le foto potevano scorrere perché le foto erano montate su alluminio, e c'erano queste guide, ti ricordi, quindi le foto potevano essere spostate, c'era quasi un'idea dei finestrini, e poi c'era anche un trenino elettrico, vero? Sì. Che poteva essere citazione da Cunellis, che l'aveva già. Riva Rossi, no, Lima, ah. Lima purtroppo. E poi invece la mostra Silvio. Sì, no, volevo concludere su, sì, Mystery Train, queste immagini realizzate, sì, da Orit, che erano dei veri e propri, delle sorte di, come possiamo definire, di epifanie visive. Furono scattate lungo un viaggio notturno che all'epoca si poteva fare, adesso penso che non si possa più fare, da Roma a Parigi, Noi amavamo andare a Parigi in treno, ci ripugnava l'aereo per andare a Parigi. Anche noi. Palatino si chiamava. Sì, Palatino. L'hanno rimesso. Beh, comunque. E comunque era straordinariamente emozionante effettuare questo viaggio notturno, rimanendo svegli naturalmente e riempiendosi gli occhi di queste epifanie di luoghi notturni indecifrabili. Io ho detto, con la macchina fotografica riusciva a cogliere in una maniera del tutto irrazionale, insomma. E questo era il nucleo portante della mostra. Poi organizzammo un'altra mostra. Questa la ricordo meno, era interno e esterno. Ma forse prima c'era quasi tutto un sì. Vabbè, interno e esterno, sì. Sempre una foto di per quanto riguardava gli interni, mentre invece gli esterni avevo recuperato delle foto scattate sia da mio nonno che da mio padre della piramide, perché noi abitando di fronte alla piramide, come dire, avevamo questa naturale, diciamo, tendenza a uscire dalla finestra e scattare foto e quindi varie cose. E invece avevamo messo, diciamo, come contrattare le foto degli interni, era veramente forse uno dei più belli per me, perché non avevo mai fotografato interni, perché ho sempre fotografato paesaggi, e sempre in relazione ai paesaggi cinematografici di vari registi come Antonioni, Bernatar, Bergman, e quello era proprio un momento che tu mi hai fatto entrare nella casa di tua zia. Mi ricordo ancora questo letto con le bambole, cosa veramente magnifica. Perché mia zia era ancora viva, sì. E sta assurdo, sempre in quell'appartamento. No, mia zia è morta nel 2017. Ah, sì, hai detto che era viva. Era ancora viva. No, perché adesso, perché abbiamo evocato prima con Boario quella casa lì dove appunto leggeva Bordini, e però appunto da 2017, quindi era l'anno prima, era venuta a mancare, mentre invece nel caso della mostra interno esterno mia zia era ancora lì e quindi le sue foto erano. Mi ricordo che anche la mano delicatamente venne a vedere la mostra e era abbastanza interessante. Infatti adesso stavo dicendo a Maurizio, siccome dopo questi interni di nuovo sono tornata al paesaggio, adesso sono tornata di nuovo agli interni. Lì c'è l'invito all'interno esterno. E avevo proprio detto a Maurizio qualche giorno fa che mi piacerebbe ritornare a quegli ambienti, perché oggi fotograferei in maniera Insomma, ci sono. Ecco. Cambiati, perché poi insomma nel frattempo io ho fatto questo matrimonio post mortem tra mia zia e mio zio, che è morto 6 mesi dopo. E però la casa di Piazza Bologna, dove l'abbiamo dovuta svuotare, quindi tutte quelle parte di quelle cose lì le ho portate a casa di mia zia, quindi per me c'è un matrimonio post mortem tra i due. Ho capito. E quindi, e poi a proposito appunto di tuo zio Fausto, che abbiamo evocato più volte, mi ricordo questa, posso definirla proprio delirante, mostra che curammo insieme andando a scartabellare in mezzo a un profluvio di immagini scattate da tuo zio quando faceva il paparazzo sostanzialmente. Sì. Ricordo il pavimento dello studio Campo Boario pieno, ricolmo come delle mattonelle di queste immagini, queste ragazze sconosciute, quasi tutte, forse anche più. Beh, avevamo, sì, beh, insomma, c'era una Sofia Loren. Sì, appunto, ancora. Sì. E comunque per me devo dire fu molto interessante, perché c'era una, nelle immagini di Fausto c'era una ricerca del femminile che secondo me andava molto al di là. Tra l'altro la mostra si intitolava Oltre le gambe, avevamo già individuato questo aspetto, cioè un'indagine ossessiva, puntuale, che aveva anche, come dire, un legame etico con il femminile, che per me fu insomma un'esperienza molto interessante. Ricordo andare a cercare una per una quelle immagini che secondo noi dovevano andare a comporre quel mosaico espressivo che doveva rappresentare la carriera di paparazzo, insomma, di tuo zio. E poi mi ricordo la serata Perloff, anche se come no. Anche questo lo ricordo vago, perché in quel periodo per il Festival Internazionale di Fotografia di Roma, ormai defunto, io e Orit curammo una grande retrospettiva di questo cineasta in Italia assolutamente sconosciuto, ma che è stato un grandissimo cineasta e un grandissimo fotografo, quindi aveva questo doppio sentiero, seguiva. Un cineasta si chiama David Perloff, israeliano e fondatore della cattedra di cinema dell'Università di Tel Aviv, che era un documentarista innovativo, sperimentale, che aprì diverse strade nella storia del documentario, ripeto, in Italia è sconosciuto, poi appena si valicano, soprattutto in Francia, i confini delle Alpi, determinati autori si conoscono. E al Palazzo dell'Esposizione organizzammo la retrospettiva completa del suo cinema alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, una grande mostra fotografica, e da Alberto una serata dedicata a David Perloff. Sinceramente non mi ricordo come l'avevamo organizzata, c'erano delle proiezioni, anche di immagini, insomma, poi facendo... Quindi in contemporanea con la Gnam e col Palaespo, sì, da, sì, a Campo Boari. Esattissimo. Poi anche l'incontro su Sophie Kahl e Sehnawi. Sì, anche Sophie Kahl, parlavamo soprattutto dei suoi video, se non mi ricordo male, e poi di Sehnawi anche ci occupammo. Sì. Stefan Sehnawi? Sì, erano in parallelo. Stefan Sehnawi, che è un altro, a mio avviso, modesto, un gigantesco autore nel campo degli audiovisivi, ha creato, diciamo così, un'estetica del videoclip che poi è stata replicata, del videoclip musicale, replicata all'infinito da tantissimi altri autori, e che ha lavorato a lungo tempo anche nel campo della fotografia, soprattutto nel campo della fotografia di moda, che poi però ha allontanato dalla sua visione estetica, ma già quando faceva fotografia di moda anche le immagini che apparivano su Vogue erano assolutamente alternative agli stereotipi della fotografia di moda, almeno dell'epoca. E quindi dedicavo una serata facendo vedere i videoclip di Stefan Sehnawi. E poi l'ultima cosa che voglio dire è che riguardava forse la nostra collaborazione, ma ricordo con particolare interesse le serate di ascolto musicale che facevamo, che erano veramente qualcosa di, degli incontri folli. E anche quella delle parole, dove ti ricordi, Gabriella? Perché, allora, questa in effetti è molto importante, perché è un'attività, diciamo, privata dello studio, nel senso che lo studio, diciamo, pur essendo uno studio Carbonaro, al suo interno, cioè le sue mostre, insomma, poi appunto erano aperte anche a grandi numeri di pubblico, ma in parallelo, ancora più sotterraneo, ancora più Carbonaro, c'erano questi incontri giochi, per lo più. Sì. Che una sera, se ti ricordi, invitammo il maestro di fisarmonica, come no, Giancarlo Caporini, che si esibì dal vivo, fu molto interessante. Sì. Quindi, diciamo, in parallelo c'erano questi incontri. Sì, no, i giochi erano molto belli. L'ascolto consisteva, ognuno portava un brano musicale della durata massima di 5 minuti, si ascoltavano, poi si votava, c'era una sorta di festival, sì, insomma, sì, così, e il brano premiato aveva questo grande onore di essere riascoltato. Quindi questo è il premio di eccezionale portata. Vabbè, penso di aver finito. Grazie. Allora, adesso qui abbiamo un'alternativa. Procedere, diciamo, come da programma con gli interventi e poi chiudere. Oppure l'altra proposta era quella che, visto che Fabio deve scappare, quindi, diciamo, la performance di Fabio la possiamo inserire, se per voi non è un problema. E Fabio, la piana, sì, la piana. E senti una cosa, quasi si possono staccare? Sì, ok, sì. Ecco. Ecco fatto. Un quadro spartito, sì, così provo a improvviso sopra, diciamo. Al centro del petto, in corrispondenza dell'ascella. In alternativa si può applicare anche sul lobo dell'orecchio, sul volto, in modo tale da coprire sia il naso che la bocca, principalmente sulla parte superiore della fronte all'altezza della nuca o sull'ultima falange di un dito, oppure all'interno della stanza a 20 cm dal centro, con il lobo rivolto verso l'alto, con un angolo di 25 gradi a destra o a sinistra, circa 1,5 metri dal pavimento, evitando fonti di calore, finestre e porte, su una superficie di lavoro piana, lontano da acqua, stagni d'acqua e recipienti contenenti acqua, va posizionato a mano al riparo dal sole e in piena corrente d'aria, con il foro di ingresso verso l'alto, al buio, ad una distanza compresa da 30 a 50 cm, nell'area maggiormente colpita in corrispondenza della barriera a circa 20 cm da terra, nel punto stabilito, evitando di metterlo dietro masse ferrose cieche, direttamente nel terreno all'interno della galleria o all'uscita della tana, in corrispondenza della presa elettrica più vicina, seguendo semplici istruzioni, evitando il contatto con elementi di ferro a distanza di sicurezza dal muro laterale in alto, sulla parete ma non troppo, vicino al soffitto, sempre in orizzontale ma in verticale, lontano dalla vista diretta. Non ci devono essere mobili, complementi d'arredo o qualsiasi altra cosa. Poi, critica del dispositivo 2. È semplice, economico e di facile installazione. Un sensore verifica ed attiva un segnale sonoro. Basta attaccarlo attraverso la pratica clip dal momento che il cavo è identico su entrambe le estremità. È semplice da indossare e non richiede un particolare addestramento all'uso. È interfacciabile con la comune strumentazione. Bastano 3 passaggi con la pressione di un tasto. Non necessita di programmazione né di appositi strumenti di monitoraggio ed è facilissimo da usare da parte di chiunque. È affidabile e preciso nel tempo di risposta senza tener conto né del materiale né del colore o la forma dell'oggetto, è disinseribile con un clic, è piccolo, è maneggevole ed è dotato di due sensori, uno frontale e uno posteriore, è clinicamente affidabile, facile da trasportare e pensato soprattutto per chi vive o lavora a contatto con la natura, in ambienti freddi o in incubatori, operando a temperatura ambiente, basta attaccarlo alla corrente, posizionare gli elettrodi sull'area di interesse e premere il pulsante di avvio. Grazie al display permette una facile interpretazione dei risultati. C'è una struttura fissa e un'anta che si ritrae all'indietro. Non si può sbagliare, meno di 10 minuti per spiegare il tutto. Richiede la semplice lettura della lancetta collegata al preciso misuratore integrato. È inoltre dotato di una valvola a rilascio rapido, veloce da utilizzare e garantisce ottimi risultati con un fascio di luce molto più forte. Una volta configurato funziona in maniera autonoma ed è semplice da riparare in caso di guasto. Un'ultima perché mi piace leggerla, che è la poesia bonus, che chiarisce le cose. Più e meno. Parlare del più e del meno. Parlare di più o di meno. Parlare di più del meno. Parlare meno del più. Parlare di più del più. Parlare di meno del meno. Parlare di più di meno. Parlare di meno di più. Parlare di più. Parlare di meno. Parlare più o meno. Non parlare né più né meno. Legherei a Domenico Adriano l'introduzione della poesia nello studio Campobuario, che è iniziata in anni, a me viene in mente 2007, ma non so neanche invece tu ricordi bene quali sono stati l'anno preciso? Non erano i primi anni 2000. E comunque viaggiando pensavo che tu sei la memoria di tutto, insomma, mentre la mia memoria se ne va. E no, l'hai dimostrato prima, puntigliosamente. Ero orgoglioso solo della mia memoria e della mia vista. Ora tutte e due sono... avevo due qualità. Scusami. Ci siamo scaliti sul pone, non so. Dovete staccare. Io pensavo che prima era caduto per la performance. Esatto, anche per la performance. Era già tutto previsto. Comunque, la memoria ha a che fare con il tutto, con il ricordo delle cose che tentiamo di mettere insieme, ma ha a che fare proprio con tutto quello che abbiamo fatto, cioè tutto è legato alla memoria. Abbiamo cominciato per gioco, abbiamo invitato dei poeti veri, scrivono tutti, ma questo da sempre, e non fanno del male a nessuno, ci piace non ascoltarli, li abbiamo invitati. E mi piace pensare, rincorrendo la memoria, che tu ti sei sempre tenuto troppo da parte. Sempre da parte. E però sei stato sempre l'anima di tutto. Sempre disponibile, insomma. Io suggerivo qualcosa e tu la facevi. Allontaniamoci dal primo momento, dall'inizio, e poi ci torniamo. E andiamo ai poeti alla lavagna. All'improvviso c'è una scuola da svaligiare prima che tutto venga buttato via. Sedie, tavoli, scrivanie, lavagne. Io ero tutto preso dalle lavagne, come si fa a portarle via? Ma tu avevi già previsto, avevi già chiamato un camion, ma come si fa a caricarle? Cerchiamo degli energumeni per caricarle. Una, due, tre, almeno tre, quattro, no, una quinta. Lì ce n'è un'altra, è più bella. A quanti sei arrivati? A 7. E devo dire che io, avessi potuto, me ne sarei caricata una ottava per portarla a casa, parcheggiarla nell'atrio, nell'entrata, nella guardiola, pur di averla. E abbiamo finto poi i poeti alla lavagna. Io non mi ricordo i nomi di quelli che sono venuti alla lavagna, ed è poco importante. Sì, Gabriella è presente, non me la posso dimenticare. Abbiamo chiamato come cavia Domenico Adriano, che ha finto di andare alla lavagna, perché in pratica non si può scrivere né alla lavagna né a tavolino una poesia, anche se qualcuno lo fa. Quindi io ho finto per introdurre gli altri, per chiamare qualcuno alla lavagna dei poeti presenti, ho finto di fare una poesia e, diciamo, mi sono lanciato con la memoria alla nascita di una poesia che avevo tentato di scrivere da ragazzo e l'avevo portata a Libero De Libero. Libero De Libero la legge e io l'ho portata alla lavagna così come gliel'ho portata. De Libero mi fece un cerchio sul terzo verso e mi disse: portiamolo di sopra e vediamo che cosa succede. Io avevo scritto una cosa che era banale: la sera accanto al focolare, vino e pane, cenava mio nonno contadino. Seconda strofe: erano in pochi ad amarlo a capo, ma lui era l'uomo più felice del mondo. Il verso da portare sopra è il secondo della seconda strofa: erano in pochi ad amarlo, ma lui era l'uomo più felice del mondo. Lui mi disse: se la guardi questa poesia, ma lui erano in pochi ad amarlo, ma lui era l'uomo. È come se lo mettessi a fuoco. La poesia è anche una cosa da guardare, è come un dipinto. A me quella cosa cambiò proprio la musica di quella poesia, che è una poesiola giovanile, ma io ne sono innamorato per questa sfida che mi ha lanciato un grande poeta, a fare il verso, ad ascoltare. Cioè, la cosa che io avevo scritto per una semplice andata a capo era una cosa banale. Con questo verso portato sopra entrava, diciamo, nella musica. Quindi io fingo alla lavagna di portare un poeta alla lavagna, poi viene Gabriella, vengono altri che tentano di recuperare dalla loro memoria, tentano di trovare dei lapilli, delle lucciole, una parola chiave che fa scattare poi una poesia. Una delle poetesse presenti è caduta un poco nella trappola, io le voglio molto bene, si chiama Raffaella Fazio, e ha tentato, unica, di scrivere una poesia alla lavagna, ma si è arrampicata con delle equazioni matematiche, ha fatto tutto un discorso inseguendo numeri che poi diventavano parole, ci ha incantati. Cioè, l'unica che è partita veramente da zero ed è stata al gioco. E stasera l'ho voluta ricordare con nome e cognome. Ritorniamo all'inizio. Noi abbiamo sempre avuto presenti, e lo ha detto lui, la cantina, le scale, volevamo utilizzare tutto. Ci incantava la terrazza, e la terrazza, guarda caso, noi dalle finestre, dalle terrazze guardiamo la piramide, ma guarda caso andando su in terrazza si vede la tomba di Keats, e noi abbiamo letto spesso cose di Keats, di Shelley, di Amelia, di Dario Bellezza, abbiamo chiamato, diciamo, a raccolta i poeti che il cui corpo, quello che resta del corpo, sta lì, ma abbiamo chiamato anche i traduttori di Keats e di Shelley, e non si può non nominare Gianfranco Palmeri, che ha tradotto poche cose, ma quelle cose sono esemplari, estimate dai più grandi traduttori che abbiamo avuto, che abbiamo ancora in Italia, come Mussapi e altri pochi, Giuseppe Conte. E abbiamo nominato Palmeri una sera in un gioco con delle bambine, scriviamo sul muro una parola che per noi è importante. E come non ricordare una bambina che casualmente era mia figlia, così era già accordata con tua figlia, con le altre, che scriveva da poco, insomma, la scrittura era veramente quasi inventata, io pensavo che avrebbe anche sbagliato a scrivere, insomma. E scrisse, a sorpresa di tanti, la parola gattità sul muro. Questa parola ancora c'è, sì, su quel muro. È stata coperta, ma ancora Albertina ancora c'è. Questa parola, che è stata usata per la prima volta in Italia in una poesia di Gianfranco Palmeri, è finita poi, ce l'ha portata un nostro amico che è venuto, Silverio Novelli, che è venuto più volte anche lui in anni passati a Piramide, a Campo Boario, nel vocabolario della Treccani, con la meraviglia di tanti che sostenevano che questa parola l'aveva usata per prima Dario Bellezza. A Dario questa parola era piaciuta tantissimo. Dario fu il primo a ricevere in dono il librino che conteneva questa parola, e se ne era subito innamorato, che tanto poi l'ha riutilizzata. Come sanno fare gli scrittori, come sanno fare i poeti, che rubano, e quella parola diventa un'altra cosa. E questa parola non è detto poi che l'abbia usata veramente Gianfranco Palmeri per la prima volta. Lo dico qui stasera senza problemi. Prima di finire di mettere una parola nel vocabolario, vengono fatte delle ricerche per 6 o 7 mesi su giornali d'epoca, su libri. Vengono fatte delle ricerche minuziose. Ma queste ricerche non possono essere complete al massimo. E come non nominare, tra i tanti che sono venuti, Barbara Galle, poeta, grande traduttrice, che ci ha portato anche degli inediti sugli uccelli. Abbiamo fatto delle proiezioni dei suoi uccelli, che fotografa da 40 anni, sta preparando un libro che farà prima di morire, di poesie e uccelli. È venuto da noi il grande Rodolfo Di Biagio, è venuta la moglie con un romanzo, persone che ora non ci sono più, come non c'è Gianfranco Palmeri, non c'è Rodolfo Di Biagio, non c'è Giovanna Grimaldi, non ci sono tanti, ma Gabriella mi potrebbe aiutare a ricordare purtroppo quanti non ci sono più. E con la poesia è arrivata la musica in tanti con tanti strumenti. Una delle cose che voglio ricordare è che una volta a sorpresa, e questa la sorpresa ce l'ha fatta Alberto, non l'aveva detto nemmeno a me, sentiamo della musica cadere dall'alto, come una sorgente, una cascata. Si capiva che era una fisarmonica, ma era una fisarmonica forte. Abbiamo scoperto poi che si chiama Luca Benitucci. E appare di sopra, non so come diavolo ha fatto a salirci, certamente con una scala che poi avete fatto sparire. Sopra il garage del cortile. E non mi ricordo la discesa, poi avrete rimesso la scala, insomma, ha volato, non lo so. Ma stava lì sopra e non suonava per noi, suonava per se stesso. Era completamente perso, è sceso, ha continuato a suonare. Vari strumenti. Noi lo seguivamo. Ha seminato tutti i luoghi, gli strumenti diversi, quindi, ed è stato l'unico a suonare il pianoforte completamente scordato di mia nonna, come se fosse stato un pianoforte preparato, perché lo aveva studiato prima, quindi tutte le sue dissonanze. Io non so se l'aveva studiato prima, sì, ma una cosa è certa, che mentre lo inseguivamo è arrivato davanti a questo pianoforte, lo ha aperto, qualcuno ha detto ma no, è stonato, e lui lo ha assaggiato e in 30 secondi ha messo a fuoco quali erano i tasti che poteva usare, quali erano i suoni che poteva tirar fuori, e così io non ho un linguaggio musicale, e così le dissonanze, insomma, ha tirato fuori da questo pianoforte, ha fatto un piccolo concerto anche di stonature che si sono intonate ad un qualcosa che lui stava inseguendo con la fisarmonica e che ha proseguito con questi tasti. È una cosa che io non dimenticherò mai. Abbiamo poi portato, e questo va testimoniato, l'orchestra di organetti di Alessandro Parente, che tra l'altro è andato a suonare anche con i ragazzi sulla tomba di Keats e di Shelley, ha fatto tutto un giro del cimitero, e quella è stata una cosa, diciamo, dove chi ospita e l'ospite si sono confusi, insomma. È una delle volte in cui ho visto sul volto di Alberto, che non è facile da accontentare, la contentezza, insomma. Ospite, la felicità. Ospite e chi ospite e chi è ospitato. Chi era ospitato e l'ospite si sono fusi, sono tutti e due ospiti. Si sono confusi. E queste sono più o meno le cose che ho ricordato in treno, e certamente sono più significative quelle che ho dimenticato. Come i crini, ad esempio. L'imbritine ce l'hanno rubato. Ce lo rubano continuamente. E Bruno, a te l'onore di chiudere. Noi abbiamo fatto tante cose molto diverse tra loro, no? Troppe cose da rimembrare. Allora, torno rapidamente, diciamo, su due misfatti di cui io sono più responsabile di altre cose. In altre cose ho una responsabilità più limitata. Quindi, primo misfatto, la proiezione del film The Wind di Sjöström, o Sjöström come forse direbbero gli svedesi, che è il maestro di Bergman, e secondo me Bergman c'è già tutto nel suo maestro, in realtà, o ce n'è già molto. È un film che in realtà, diciamo, io ricordavo poco, ma Alberto mi ha proposto di musicarlo dal vivo, e l'idea è stata quella di usare una, come dicevo prima, una superficie MIDI di controllo o drum machine, una sorta di drum machine evoluta, e l'esperimento era questo: usare una serie di campioni, che erano campioni melodici, armonici, ritmici, erano droni, erano suoni ripresi dal vivo, e miscelati così dal vivo in maniera totalmente aleatoria, in maniera totalmente improvvisata, diciamo, senza nessuna preparazione al di fuori, appunto, della preparazione dei singoli spezzoni che venivano suonati, diciamo, assieme o separatamente, appunto in maniera quasi totalmente aleatoria. Mi pare che l'esperimento, diciamo, abbia funzionato, e intanto sono venute disperatamente molte persone, abbiamo riempito la sala. Scusa, Wind è un film muto? È un film muto, in questo 26 senso. 26 o 29, mi ricordo. No, dovrebbe scendere. Vabbè, anni 20. Quindi l'idea era di sonorizzare come si faceva una volta. Sì, una volta c'era il pianista, diciamo il tipo di... colonna sonora, sonorizzazione, film bellissimo dove veramente il vento è il protagonista assoluto, è questo vento che travolge qualunque sentimento, qualunque persona, e la fa impazzire poi. Quindi il mio tentativo esperimento era di non usare mai suoni che richiamassero il vento. e diciamo, mi pare che la cosa ha funzionato, perché, diciamo, dopo la proiezione sono venute delle persone a complimentarsi con noi, e tra l'altro sono venute delle persone che mi hanno detto: ma bellissimo CD che avete messo, ma che cos'è? Quindi in realtà non c'era quasi assolutamente nulla di preparato. Avete conservato questa sonorizzazione? Assolutamente no, non è stata. Non è stata. Questo purtroppo fa parte. Ha detto di Giuseppe, l'obbligo è programmatico. Non è stata registrata. I campioni, però, diciamo, tutto il materiale utilizzato esiste ancora, e non dispero di rimetterlo assieme un'altra volta in qualche modo. Ecco, però quell'episodio lì è rimasto, diciamo, irripetibile. E diciamo, un'altra cosa che sempre, diciamo, sulla stessa linea, che mi fa piacere molto ricordare, è questo melologo che abbiamo tenuto in epoca Covid, non ricordo più esattamente che anno. Erano gli anni in cui ognuno di noi poteva invitare una o due persone massimo, quindi c'era questo contenimento dell'afflusso. 2022 forse, 21 forse. Quindi si entrava col, come si chiamava, il certificato, sì. il green pass, si entrava con il green pass, la mascherina, e all'ingresso c'era qualcuno che misurava la temperatura. Sì. Ma è vero, l'abbiamo comprato la pistola. Sì, io ce l'ho, anche pure qui. Esatto. Noi abbiamo inaugurato qui nel novembre del 21 col green pass e misurazione della temperatura. Certo, ma pure è vero, di qua c'era la bestia, tutti quanti. Quindi si trattava di un melologo, quindi musica e lettura di una sorta di poema in prosa, in realtà, di un autore che è Roberto Sandrucci, autore di poesia, narrativa, saggi, estremamente elusivo, però non incontrerete mai. Lui si è una delle poche volte in cui è apparso in pubblico, è stato allo Studio Campo Boario. Quindi un melologo accompagnato ancora una volta da me, che suonavo sempre questa drum machine in maniera però più, stavolta più strutturata e più prevista, come dire. Il titolo era Questo giardino che oggi tu distruggi, ed era dedicato, lui è anche un autore umoristico, in quell'occasione l'umorismo è mancato completamente, perché diciamo, se posso permettermi di interpretarlo, non so se Roberto Sendrucci crederebbe di essere interpretato da me, ma se posso permettermi di interpretarlo, era un melologo dedicato alla bruttezza di cui questo paese va matto, come posso dire, no? Questo contrariamente a quello che vuole lo stereotipo sugli italiani, secondo me negli ultimi decenni in Italia va per la bruttezza in tutte le sue manifestazioni, e basta fare una passeggiata per Roma, insomma, per accorgersene. E diciamo, questa era la base di un melologo che prevedeva una sorta di apocalissi per questo, diciamo, per questo mondo, ma credo che lui avesse proprio in mente in maniera specifica specifica l'Italia, e devo dire che l'atmosfera covidiana era proprio un po' pre-apocalittica o post, non saprei, o post apocalittica. È una serata che, diciamo, in realtà è andata anche, credo, molto bene. Abbiamo dotato lo studio Campo Boario di apparecchiature audio semiprofessionali e professionali, che in parte sono ancora lì. Io no? Ringrazio tantissimo Bruno per questo, perché quando Tino Franco e io nel 2007 iniziamo col ciclo di proiezioni, il proiettore è lo stesso, è andato abbastanza bene, ma sull'audio siamo stati ripresi da qualunque autore con un minimo di orecchio, e devo dire ci sentivamo molto in colpa. Infatti avevamo anche comprato un'evoluzione, un 5.1, ma nonostante questo non eravamo arrivati a nulla, mentre invece Bruno ci presta ancora, non so fino a quando vorrà, delle casse appunto professionali, e adesso anche insomma quando proiettiamo non siamo più di quelli. Mi pare che adesso vada per funzioni bene. E poi rapidissimamente un'altra bella iniziativa, Est, che non si trattava di degustazioni di vini laziali, ma Est era l'Oriente visto da Occidente, quindi in cui si voleva, diciamo, sondare il modo in cui sostanzialmente l'Oriente è immaginato da Occidente, perché diciamo io ho una grande passione, varie grandi passioni, ma una grande passione che è l'India nella mia vita, ma non tanto l'India reale, quanto l'India come è costantemente immaginata nel cinema, nella letteratura, e specialmente nei romanzi d'avventura, eccetera. Non so se ricordate, insomma, il Giro del Mondo in 80 giorni, là c'è una fantastica, lunga digressione ambientata in India, che dà l'idea di cosa esattamente, penso che l'intento di Jules Verne fosse questo, di che cosa fosse l'India letteraria, e però poi abbiamo esteso al Giappone, alla Cina, insomma. E però, diciamo, se non sbaglio, in quell'occasione abbiamo avuto anche un po' di Oriente reale, nel senso che Silvia Stuck invece ha tenuto una magnifica cerimonia del tè. Queen's the best. una volta. Quindi, diciamo, quello è stato un esempio invece di, come posso dire, Oriente che beneficamente irrompe, in maniera irrompe l'Occidente. Irrompe nell'Occidente, non è più, diciamo, un Oriente un Oriente immaginario. Perché Silvia è maestra di Chanui, no? cerimonia del tè. E poi un'altra iniziativa, e qui siamo nel 2021, Eternità Dorata, che è il titolo di una serie di eventi. Allora, intanto ricordo, io ho visto solo la fine, un meraviglioso happening di Pasquale Polidori, che comprendeva a urlo di il celebre poema di Allen Ginsberg, che certamente lui non si è limitato a evocare, no, è stata una performance a tutto tondo. E poi c'è stato un incontro curato da Elettra Carella Pignatelli, intitolato Beat Italy, la scena romana, quindi dedicato alla scena, al suo padre, al padre, alla scena vivacissima beat romana. E qui diciamo, io ho avuto modo di sottolineare il legame tra i letterati beat, non tanto italiani ma quelli, diciamo, americani, quelli più universalmente noti, specialmente Kerouac e Ginsberg, con l'Oriente. A un certo punto Kerouac, penso lo ricorderete, diventa buddista, si dichiara buddista, ha alcuni anni di, diciamo, luna di miele col buddismo, sia indiano, sia cinese, sia giapponese, per poi negli ultimi anni della sua vita tornare al cattolicesimo della sua infanzia. E, diciamo, questo è diventato un progetto di ricerca sul quale sto lavorando, e tra poco pubblicherò un articolo sul Kerouac, diciamo, sul Kerouac orientale, e più in là spero un libro sui beat e l'Oriente. Perché, diciamo, i letterati beat sono sempre stati accusati superficialmente di superficialità, ma in realtà il loro atteggiamento era tutt'altro che superficiale. Basta, è qui. Ma... grazie. Ma essendoci Gabriella Pace, Pierluigi Isola, l'ha lasciata un bambino nel cortile, io l'avevo dimenticata sopra, e oggi quando è arrivato Carlo Alberto mi è caduto. Carlo Alberto, due parole conclusive su questi incontri, no? Che hai ascoltato. Io ho ascoltato attentamente tutti e tre gli incontri, posso dire che cosa ti viene. Allora, una cosa che mi ha colpito è che diciamo, la memoria, il ricordo, la descrizione è stata più forte, cioè voglio dire la freschezza del racconto, nonostante molti omissis, molti non ricordo, proprio la genuinità della memoria, del ricordo, ha reso belli questi incontri, no? Non ci sono stati discorsi, teorici su, non so, studio Campio Boario, la prosecuzione del lavatoio contumaciale di Tommaso Binga, oppure come le serate futuriste, che in qualche modo quella di oggi poteva ricordare certi, no, happening intorno a rumori. e quindi non c'è stata quella, come dire, da parte anche di chi ha parlato oggi, che sono soprattutto studiosi, professori, c'è stata, non mi è sembrato che è stato più forte il desiderio di ricordare certi particolari, certi dettagli, perché poi, come no, è nel dettaglio, è nel particolare che si annida la verità. E quindi da parte mia c'è stato, e ancora ringrazio voi, ma attraverso di voi anche quelli che sono venuti prima, c'è stato il fatto che i 34 anni dello studio Campoboario, che sembrano una sciocchezza, ma 34 sono tanti, è l'età di un, ormai di un uomo, no? È un uomo uno più di Cristo, insomma, sono stati bene rievocati, anche se d'altro canto, voglio dire, oggi abbiamo detto che la sua composizione musicale non è stata registrata, ma tutta la musica prima dell'Ottocento non è stata registrata, quindi va bene pure così. Quindi l'inattualità, la radicalità anarchica di questa esperienza dello studio Campoboario, con tutti i suoi addentellati, mi sembra che sia, come l'arte, una cosa futile e assolutamente indispensabile, cioè nell'ossimoro, no? L'ossimoro che ho appena pronunciato, sì. Mi sembra che il lavoro. Ecco, una cosa che volevo chiedere ad Alberto, questa è un po' cattiva come cosa, ma c'è stata qualcuno a cui gli hai detto no, te da me non ci esporrai mai? Ci sono stati, no? Non posso pensare, cioè c'è stata una selezione. Ho fatto anche delle amici. Amicizie, sì, di persone, sì. Perché non può succedere quello che succede con l'acquisto dei quadri nei mercatini, no? Uno dice, vai nei mercatini, compri dei quadri, eccetera, così, quindi ti piace il cattivo gusto, ti piace. Ma per me la scelta di questi quadri è estremamente selezionata. E prima che uno di questi quadretti mi piaccia, insomma, ne vedo 150. Allo stesso modo anche nello studio, sì, è capitato non solo a me, ma per esempio quando noi proiettavamo il film insieme a Tino, nei 7 anni di proiezione, noi ogni sera avevamo qualcuno che ci portava dei DVD per film da proiettare, e la nostra regola era molto semplice: i film dovevano piacere a tutti e due. Quindi non era sufficiente che piacessero a uno, e avevamo dei gusti anche molto molto diversi tra di noi, e quindi abbiamo detto tanti no, ma anche a degli amici storici del liceo, per dire, che poi mi hanno quasi tolto il saluto, quindi da questo punto di vista, anche se apparentemente sembra un luogo dove chiunque possa, poi alla fine, insomma, c'è un'idea più che altro inclusiva, trasversale, per dire, non c'è programmaticamente una esclusione, quindi non escludiamo, non so, per tornare alla dicotomia classica delle arti figurative, no? Astratto, delle arti visive, astratto, figurativo, quindi non c'è nulla di tutto ciò, e anche nella sperimentazione, ma c'è una selezione molto molto accentuata, dovuta all'irrazionale, diciamo. Il concetto chiave per me è l'arbitrarietà, e poi io vado a simpatia. Comunque questa simpatia è una capacità di ascolto, perché faccio l'esempio della poesia: lui non ha ascoltato soltanto la poesia che fanno alcuni poeti legati molto alla tradizione e così via. Ha saputo ascoltare, e sa ascoltare, una poesia che viene ancora vivamente sperimentata. Cioè, certe cose che ci sono, sì, sì, non a c'è, me, per esempio, non c'è questa selezione, lontane, no? Ma che riconosciamo come non poesia. Non c'è una linea per cui tu presenti soltanto delle cose, ma c'è un altro tipo di selezione. È un po' quello che ti dicevo quando ho fatto questo discorso così generalizzato sui segmenti dell'arte, sì, e su una segmentazione tradizionale che noi assorbiamo, che diciamo ci viene trasmessa. La mia idea è quella di provare a metterla in discussione, quindi provare a mettere in discussione una categorizzazione diciamo ufficiale, tradizionale, condivisa, e proporne una personale. Quindi nel momento in cui abolisci tutte le caselle, no? E poi te ne inventi altre che sono magari assurde, diciamo, per molti, perché non hanno appunto delle ragioni, se non la soggettività così. Beh, io adesso riprendo l'invito che ha fatto lui prima e ti mettiamo al centro della scena. Applauso. E grazie a voi. Grazie Carlo Alberto, no, per questo spazio. Noi sabato facciamo un finissage. E quindi se vuole tornare ci beviamo qualcosa e... grazie veramente, grazie.